Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Elsa Agalbato legge Bellamy di Guy de Maupassant, traduzione di Giorgio Caproni. Duroy, che mirava ad ottenere un appuntamento con la signora Voltaire fuori della Trinità, mormorò: «Dove potrò vederla domani?» Lei non rispose. Pareva un corpo inanimato, la statua stessa della preghiera. «Vuole», riprese lui, «che ci vediamo domani al Parco Monceau?» Lei volse il volto di nuovo scoperto, un volto livido, contratto da una sofferenza atroce, e con voce scossa dai singulti disse: mi lasci adesso, se ne vada per 5 minuti soltanto. Soffro troppo vicino a lei. Mi lasci pregare sola 5 minuti. Non posso. Mi lasci implorare Dio che mi perdoni, che mi salvi». Aveva un viso talmente sconvolto, un'espressione così addolorata, che lui si alzò senza dire una parola. Poi, dopo un attimo d'esitazione, domandò: «Posso tornare fra qualche istante?» Lei fece un cenno del capo come per dire «sì, fra qualche istante», e lui s'avviò verso il coro. La signora Voltaire cercò allora di pregare. Invocò Dio con un sovrumano sforzo di volontà e, vibrando in tutto il corpo, smarrita nel profondo dell'animo, «pietà!» gridò rivolta al cielo. Qualcuno s'avvicinò a passo svelto. Lei volse il capo. Era un prete. Allora si alzò, gli corse incontro tendendo le mani giunte e balbettò: «Oh, mi salvi, mi salvi!» Quello si fermò sorpreso. «Ha bisogno di qualcosa, signora?» «Ho bisogno che lei mi salvi. Abbia pietà di me. Se non mi porge il suo aiuto, sarò perduta!» La guardò domandandosi se per caso non fosse matta e ripeté: «Le occorre qualcosa?» Era un giovane alto, grassoccio, con le gote piene e cascanti, ombreggiate di nero dalla barba rasata con cura. Un bel curatone di città, di un quartiere opulento, abituato alle ricche penitenti. «Voglio che mi confessi», disse lei. «Mi consigli, mi conforti, mi dica cosa devo fare». Lo tratteneva per la tonaca nera perché non le sfuggisse. E quello, preoccupato, guardava da tutte le parti, se per caso qualche occhio malevolo o bigotto non si fosse accorto di quella donna cadutagli ai piedi. Avendo ormai capito che non poteva liberarsene, «si alzi», disse. «Nemmeno a farlo apposta ho con me le chiavi del confessionale». E, frugatosi in tasca, ne cavò un anello pieno di chiavi. Ne scelse una e si diresse a passo svelto verso uno dei casotti di legno, specie di bussoli per la spazzatura dell'anima, dove i fedeli vuotano i loro peccati. Duroy, compiuto il giro del coro, prese la navata a sinistra. Passò oltre e adagio prese a risalire la navata a destra per incontrarsi di nuovo con la signora Voltaire. Non avendola trovata, tornò a sedersi sulla sedia già occupata da lei, sperando che lo avrebbe raggiunto lì, e aspettò. Un lieve pispigliar di voci attirò presto la sua attenzione. Non aveva visto nessuno in quell'angolo della chiesa. Da dove veniva dunque quel parlottio? Si alzò per vedere e scorse nella cappella vicina gli uscioli d'un confessionale. Un lembo di veste usciva da uno di questi toccando il pavimento. Si avvicinò per osservare la donna. La riconobbe. Stava confessandosi. Gli venne una voglia matta di prenderla per le spalle e di strapparla da quello scatolone. Poi pensò: «Oggi è la volta del prete, domani sarà la mia». Aspettò a lungo. Infine la signora Voltaire si alzò, si voltò, lo vide e gli si avvicinò. Aveva un volto freddo e severo. «Signor Duroy, la prego di non accompagnarmi, di non seguirmi, di non presentarsi più da solo a casa mia. Non la riceverei. Addio!» E se ne andò dignitosamente. Il nostro giornalista, trovandosi libero, andò alla Vie Française. Appena entrato, vide dalla faccia indaffarata dei fattorini che stava accadendo qualcosa d'anormale, ed entrò bruscamente nell'ufficio del direttore. Zi Walter, in piedi, nervoso, stava dettando un articolo a pezzi e a bocconi e fra un da capo e l'altro impartiva ordini ai reporter che lo circondavano, faceva raccomandazioni a Boisrenard e apriva lettere. Quando Duroy entrò, il principale lanciò un grido di gioia. «Ah, che fortuna! Ecco Bellamy!» Si morse le labbra un po' confuso e si scusò. «Mi perdoni se l'ho chiamato così. Sono molto scosso da quanto sta accadendo. E poi, da mane a sera, non fo che sentir questo nome in bocca di mia moglie e delle mie figliole, e ho finito col prendere il vizio anch'io. Non me ne vorrà, vero?» George rise. «Ma si figuri! Non c'è nulla che mi dispiaccia in questo nomignolo!» Zi Walter riprese. «Benissimo. Allora lei sarà anche per me, Bellamy, come per tutti gli altri. Dunque, ci sono fatti grossi. Il governo è caduto con 310 voti contro 102. Dobbiamo rimandare ancora una volta le nostre ferie, rimandarle alle calende greche. E già siamo al 28 luglio. La Spagna è offesa per il Marocco e questo ha provocato la caduta di Durand de Lene e dei suoi accoliti. Siamo in un ginepraio fino al collo. Marot ha avuto l'incarico di formare il nuovo gabinetto. Ha messo il generale Boutin d'Acre alla difesa e il nostro amico La Roche-Mathieu agli esteri. Il portafoglio degli interni se lo tiene lui insieme con la presidenza del Consiglio. Diventeremo un foglio ufficioso. Sto scrivendo l'articolo di fondo, una semplice dichiarazione di principi, tracciando ai ministri il programma da seguire. Il vecchio sorrise e soggiunse. Il programma che contano di seguire, si intende? Ma mi ci vorrebbe qualcosa di interessante sulla questione marocchina. Uno scritto d'attualità, una cronaca che faccia colpo, qualcosa di sensazionale, non so nemmeno io che... Me lo procuri lei? Duroy rifletté un attimo, poi rispose. Oh, quello che fa al caso suo! Andò a frugare nella collezione della Vie Française per cercarvi il suo primo articolo, I ricordi d'un cacciatore d'Africa, che ribattezzato, rimpolpettato e adattato, era proprio da un capo all'altro quello che ci voleva, giacché parlava giusto appunto di politica coloniale, della popolazione algerina ed una passeggiata nella provincia di Orano. In tre quarti d'ora l'articolo fu rifatto, rattoppato, messo a punto, dandogli un qualche sapore d'attualità e non dimenticandovi le lodi al nuovo gabinetto. Il direttore, come l'ebbe letto, esclamò «Perfetto, perfetto! Lei è un uomo d'oro! Complimenti!» E Duroy tornò a casa per cenare, felice della sua giornata, nonostante lo scacco alla Trinità, sentendo d'avere ormai partita vinta. Sua moglie lo aspettava eccitata. Esclamò appena lo vide. «Lo sai che La Roche è ministro degli esteri?» «Sì, ho finito proprio ora di scrivere al proposito un articolo sull'Algeria». «Un articolo?» «Lo conosci già, il primo che scrivemmo insieme. I ricordi d'un cacciatore d'Africa, rivisto e corretto per la circostanza». Lei sorrise. «Ah già, va a pennello». George stava per ribattere ironico quando gli portarono un telegramma con questa sola frase senza firma. «Avevo perduto la testa. Mi perdoni e venga domani alle 4 al Parco Monceau». Capì a volo e l'indomani arrivò puntualissimo all'appuntamento. Su tutte le panchine del parco erano seduti degli sfaccendati, sfiniti dal caldo, e alcune balie indolenti che parevano trasognate mentre i piccini si rotolavano sull'arena dei viali. Trovò la signora Walter fra gli antichi ruderi dove sgorga una fonte. Girava intorno all'esiguo perimetro delle colonnine, visibilmente preoccupata e angustiata. La salutò e lei disse subito «Quanta gente in questo giardino!» Lui colse la palla al balzo. «Davvero? Vogliamo andare da qualche altra parte?» «E dove?» «In un posto qualsiasi, in una carrozza, per esempio. Abbasserà la tendina e sarà al riparo da ogni sguardo». «Sì, preferisco. Qui muoio di paura». «Bene, Fra 5 minuti mi raggiungerà al cancello che dà sul boulevard esterno. Arriverò là in vettura. E s'allontanò di corsa. Quando furono di nuovo insieme, lei coprì il vetro del finestrino e domandò: «Dove ha detto di portarci al cocchiere?» E George rispose: «Non si preoccupi, sa dove andare». Gli aveva dato l'indirizzo dell'appartamento di Rue de Constantinople. La carrozza s'era fermata. Duroy aveva aperto lo sportello. «Dove siamo?» domandò lei. Lui rispose: «Scenda ed entri in questo palazzo. Qui saremo più tranquilli». «Ma dove siamo?» «A casa mia, nel mio appartamento di scapolo che ho ripreso per qualche giorno per avere un angolino dove incontrarci». Lei s'aggrappò all'imbottitura della carrozza, sgomentata dall'idea di quel convegno a due, e balbettò: «No, no, no, non voglio, non voglio». Lui disse risoluto: «Le giuro che la rispetterò. Venga!» E la spinse nel suo appartamentino. La Vie Française aveva assunto considerevole importanza grazie ai suoi legami col potere. Forniva, ancor prima dei più seri giornali, le notizie politiche, indicava con lievi accenni le intenzioni dei ministri suoi amici, e tutti i quotidiani di Parigi e della provincia attingevano dalle sue pagine le loro informazioni. Era citata, era temuta, e la si cominciava a rispettare. Non era più l'organo sospetto d'un gruppo di politicanti maneggioni, ma l'organo riconosciuto del gabinetto. La Roche-Mathieu era l'anima del giornale e Duroy il suo portavoce. Zi Walter, deputato silenzioso e cauto direttore, abile nel non dar nell'occhio, stava occupandosi nell'ombra, dicevano, d'una grossa speculazione a proposito di certe miniere di rame nel Marocco. Il salotto di Madeleine era diventato un centro influente dove ogni settimana si riunivano vari membri del governo. Lo stesso presidente del Consiglio era stato 2 volte a pranzo da lei. E le mogli degli uomini di Stato, che un tempo esitavano a varcare la sua porta, adesso si vantavano d'essere amiche sue e l'andavano a trovare molto più spesso di quanto non facesse lei con loro. Il ministro degli esteri la faceva quasi da padrone in casa di Duroy. Vi capitava in qualsiasi momento, recava dispacci, ragguagli, informazioni che dettava sia al marito sia alla moglie come se fossero suoi segretari. Quando Duroy, andatosene il ministro, restava solo con Madeleine, sbottava in oscure minacce, in perfide insinuazioni contro il modo di fare di quel mediocre nuovo arrivato. Ma lei alzava le spalle sprezzante ripetendo: «E perché non fai altrettanto anche tu? Diventa ministro e allora potrai alzare la cresta. Se no, zitto». Lui s'arricciava i baffi guardandola di tralice. «Mica sanno di che son capace io», diceva. «Forse se ne accorgeranno un giorno». Alle 4, Duroy doveva incontrarsi in Rue de Costantinople con la signora De Marel, che continuava a vedere là regolarmente 2 volte la settimana, il lunedì e il venerdì. Ma entrato in redazione, gli consegnarono un dispaccio chiuso. Era della signora Walter e diceva: «Devo assolutamente parlarti oggi stesso. È cosa molto importante, importantissima. Aspettami alle 2 in Rue de Costantinople. Posso esserti di grande aiuto. Tua amica fino alla morte, Virginie». Lui sacramentò: «Per Dio, che mignatta!» E preso da una crisi di malumore, risortì subito, troppo innervosito per poter lavorare. Erano 6 settimane che cercava di romperla con quella, senza riuscire a fiaccarne l'incaponito attaccamento. S'erano visti spesso nei primi tempi in Rue de Costantinople, ma Duroy, che temeva di incontrarsi con la signora De Marel, adesso trovava 1000 pretesti per rifiutare quegli appuntamenti. Così era dovuto andare quasi tutti i giorni da lei, ora pranzo, ora cena. Virginie gli stringeva la mano sotto il tavolino, gli porgeva la bocca dietro un uscio. Ma lui preferiva divertirsi con Suzanne, che lo esilarava con le sue stramberie. In quel corpicino di pupattola serpeggiava uno spiritello agile e scaltro, inatteso e sornione, sempre pronto alla farsa come una marionetta in una fiera. Costei si beffava di tutto e di tutti con mordace puntualità. George ne eccitava il brio, la incitava all'ironia e si intendevano a meraviglia. Lo chiamava ogni momento: «Senta, Bellamy! Venga qua, Bellamy!» Lui lasciava subito la genitrice per correre vicino alla figlia, che gli mormorava in un orecchio qualche malignità, e insieme ridevano di tutto cuore. Ma era così stufo dell'amore della madre da provarne ormai un'invincibile ripugnanza. Non poteva più né vederla, né sentirla, né pensarla senza che gli entrassero i nervi. E perciò smise di frequentarne la casa, di rispondere alle sue lettere e di cedere ai suoi richiami. Lei capì infine di non essere più amata e soffrì orribilmente. Si incaponì, lo spiò, lo seguì, l'aspettò in una carrozza con le tendine abbassate, all'ingresso del giornale, sul portone di casa, sulla strada dove sperava che passasse. Lui aveva una gran voglia di maltrattarla, d'offenderla, di picchiarla, di dirle papale papale: «Basta, ne ho fin qui, m'ha scocciato!» Ma aveva ancora qualche ritegno per via della vie française e cercava, a furia di freddezza, di durezze velate di riguardi e perfino a volte di parole rudi, di farle comprendere che era tempo di piantarla. Ma lei si intestardiva, soprattutto nell'escogitare astuzie per attirarlo in Rue de Costantinople, e lui viveva nel terrore che le due donne, un bel giorno, potessero trovarsi a faccia davanti a quella porta. Il suo attaccamento per la signora de Marel, al contrario, era aumentato durante l'estate. La chiamava il suo ragazzaccio e decisamente gli piaceva. I loro caratteri avevano agganci simili. Appartenevano entrambi all'avventurosa razza dei vagabondi della vita, quei vagabondi in guanti gialli che somigliano tanto, senza che se ne rendano conto, agli zingari delle strade maestre. Elsa Galbato ha letto Bellamy di Guy de Maupassant, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.